Ad alta voce. Peppe Servillo legge Le voci di Marrakesh di Elia Scanetti. Traduzione di Bruno Nacci. Lungo la strada per la Berrima, il discorso cadde sul Glaoui, il pascià di Marrakesh. Pochi giorni prima, nella moschea del quartiere, era stato compiuto un attentato. Un attentato contro il nuovo sultano del Marocco. La funzione religiosa era l'unica occasione che aveva l'attentatore di avvicinarsi fisicamente al re. Il nuovo sultano era un uomo avanti negli anni. Era lo zio del suo predecessore, che i francesi avevano deposto ed esiliato dal Marocco. Lo zio sultano, considerato un uomo ligio ai francesi, era osteggiato con ogni mezzo dal Partito dell'Indipendenza. Tra gli indigeni di tutto il paese, l'unico che lo appoggiava con energia era proprio il Glaoui, il pascià di Marrakesh, che da due generazioni era noto come il più fedele alleato dei francesi. Il Glaoui aveva accompagnato il nuovo sultano nella moschea e all'istante aveva abbattuto l'attentatore con un colpo di arma da fuoco. Il sultano aveva riportato soltanto una lieve ferita. Poco prima di questo avvenimento, io e un mio amico stavamo passeggiando in quella parte della città. Essendo capitati per caso davanti alla moschea, ci eravamo fermati a osservare la folla che aspettava l'arrivo del sultano. La polizia era in grandissima agitazione perché già c'erano stati parecchi attentati e si stava disponendo lì attorno in modo maldestro e chiassoso. Anche noi fummo cacciati via bruscamente, ma contro gli indigeni i poliziotti si avventarono con urla rabbiose, benché quelli si fossero sistemati esattamente nel punto che era stato loro prescritto. Date le circostanze, a noi passò la voglia di aspettare l'arrivo del sultano e riprendemmo il nostro cammino. Mezz'ora più tardi ci fu l'attentato e la notizia si diffuse rapida come il vento in tutta la città. Ebbene, ora ritornavo con il mio nuovo accompagnatore per le stesse vie di allora. Per questo il discorso cadde sul Glaoui. «Il pascià odia gli arabi», disse lì. «Egli ama gli ebrei. È l'amico degli ebrei. Non permette che succeda qualcosa agli ebrei». Parlava di più e più speditamente del solito. E ciò che diceva faceva uno stranissimo effetto. Sembrava che lo avesse imparato a memoria da un vecchio libro di storia. Neppure la Mellamia era sembrata così medioevale come le parole che egli pronunciò riguardo al Glaoui. Osservai furtivamente il suo volto mentre ripeteva più e più volte le stesse parole. Gli arabi sono suoi nemici. Tiene gli ebrei vicino a sé. Parla agli ebrei. È l'amico degli ebrei. Preferiva il titolo pascià, che indicava la dignità, al cognome Glaoui. Ogni volta che lo dicevo, Glaoui, lui replicava dicendo «Pascià». In bocca a lui «Pascià» suonava come la parola «comandante», con cui fino a poco prima mi aveva fatto impazzire. Comunque, la sua parola più importante e carica di speranza seguitò ad essere, in barba al Glaoui, americano. Nel frattempo, attraverso una piccola porta, eravamo entrati in un quartiere situato al di là delle mura cittadine. Le case erano a un piano solo e avevano un aspetto assai povero. Nelle strade piccole e accidentate difficilmente si incontrava qualcuno, solo ogni tanto dei bambini che giocavano. Mi stavo chiedendo come avremmo fatto a raggiungere il palazzo passando di lì, quando Eli si fermò davanti a una casa tra le meno appariscenti e disse «Qui sta mia zia, ma non abita nella Berrima». «È questa la Berrima?» disse. «L'intero quartiere si chiama Berrima. E qui possono abitarci anche gli ebrei?» «Sì», rispose. «Lo ha concesso il pascià. Ce ne sono molti, no? Gli arabi sono qui in maggioranza. Però ci abitano anche degli ebrei. Non vuole conoscere mia zia. Anche mia nonna abita qui». Ero molto contento di poter vedere di nuovo l'interno di una casa. E mi considerai fortunato, perché si trattava di una casa così semplice e poco appariscente. Quel cambio mi andava bene, anzi, Se avessi capito subito di che cosa si trattava, sarei stato più contento ancora che di una visita al palazzo del sultano. E lì bussò, e rimanemmo un momento in attesa. Apparve una donna giovane e robusta, dai tratti aperti e cordiali. Ci fece entrare, anche se era un po' imbarazzata, perché tutte le stanze erano state imbiancate di recente, e dunque non poteva accoglierci come si deve in nessun posto. Sostammo in un minuscolo cortile, sul quale davano tre piccole stanze. Nel cortile c'era la nonna di Elie, che non aveva affatto l'aspetto di una vecchia. Ci accolse sorridendo, ma a me sembrò che non fosse particolarmente fiera del nipote. Tre bimbetti si aggiravano per il cortile urlando a squarciagola. Erano piccolissimi e volevano essere presi in braccio. I due più piccoli strillavano in maniera assordante. E lei parlava insistentemente alla giovane zia. Rimasi stupefatto da quanto parlava. Il suo arabo aveva una sorta di veemenza della quale non lo avrei mai creduto capace, ma forse, pensai, era dovuta più che altro alla natura di quella lingua. La zia mi piacque. Era una donna giovane e formosa, che mi osservava con stupore, ma senza alcuna traccia di servilismo. A prima vista ricordava le donne orientali dipinte da Delacroix. Aveva la stessa forma del volto, allungato ma pieno, lo stesso taglio degli occhi, lo stesso naso di ditto e un po' troppo lungo. In quel piccolo cortile le stavo vicinissimo. I nostri sguardi si incontrarono con naturale piacere. Rimasi talmente colpito che abbassai gli occhi, ma il mio sguardo si posò allora sulle sue robuste caviglie. Ed esse mi attrassero come il suo viso. Mi sarei seduto volentieri accanto a lei. La donna taceva, mentre lei continuava a parlarle con veemenza, e i bambini gridavano sempre più forte. Anche sua madre mi era molto vicina, non meno di lei. Sicuramente si accorge di qualcosa, pensavo tra me con un senso di penoso imbarazzo. I pochi mobili erano accatastati uno sopra l'altro nel cortile. E le camere nelle quali si poteva guardare dentro erano vuote. Non c'era un posto dove mettersi a sedere. Le pareti erano intonacate di fresco. Sembrava che la famiglia fosse appena entrata in quella casa. La giovane donna aveva un profumo di pulito, come le sue pareti. Cercai di immaginarmi suo marito e lo invidiai. Feci un inchino. Diedi la mano a sua madre e a lei e mi voltai per andarmene. E lì venne con me, fuori sul vicolo, disse: «Le dispiace molto che stanno facendo le pulizie». Io non riuscii a trattenermi e dissi: «Sua zia è una bella donna». A qualcuno dovevo dirlo, e forse, irragionevolmente, speravo persino che lui mi rispondesse: «Mia zia desidera rivederla». Ma egli non disse nulla. A tal punto non aveva fatto caso alla mia inspiegabile inclinazione, che subito propose di condurmi da uno zio. Io acconsentii, vergognandomi un poco di essermi tradito. Forse ero andato contro le loro usanze. Uno zio brutto e noioso avrebbe controbilanciato la bella zia. Lungo la strada, Elie mi spiegò le sue complicate relazioni familiari. In realtà si trattava di relazioni molto articolate, più che complicate. Elie aveva parenti in moltissime città del Marocco. Portai il discorso sulla cognata, che avevo visto il giorno prima, e chiesi notizie del padre di lei, che si trovava a Mazagan. «C'est un pauvre», mi disse, «un povero». Era lui, come si ricorderà, l'uomo di nome Samuel. Non guadagnava nulla. Sua moglie lavorava per lui. Aveva sempre mantenuto da sola tutta la famiglia. «C'erano molti ebrei poveri a Marrakesh». 250, rispose. «La comunità gli dà da mangiare». Per poveri, lì, intendeva la gente che chiede l'elemosina, e perciò si dissociava nettamente da questa categoria. Lo zio, dal quale ora stavamo andando, aveva una piccola bancarella fuori dalla mellà e vendeva stoffe di seta. Era un uomo magro, piccolo, pallido e triste, che spiccicò poche parole. La sua bancarella era isolata, Nessuno si avvicinò mentre le stavo davanti. Sembrava che tutti i passanti le girassero all'arco. Alle mie domande lo zio rispose in un francese corretto ma stringato, quasi a monosillabi. Gli affari andavano molto male, nessuno comprava qualcosa, la gente non aveva denaro, gli stranieri non venivano per via degli attentati. Per quell'uomo silenzioso, gli attentati facevano troppo chiasso. Il suo non era un lamento forte o appassionato. Apparteneva a quel genere di persone che pensano sempre che orecchie estranee possano stare in ascolto. E la sua voce era talmente sommessa che io quasi non lo capivo. Lo lasciammo come se non fossimo mai stati lì. Avrei chiesto volentieri a Elie come si era comportato questo zio durante il matrimonio. In fondo, erano passati soltanto 2 giorni da quando la famiglia aveva celebrato la sua grande festa. Ma mi trattenni dal fargli questa domanda un po' maligna, che egli comunque non avrebbe capito, e dissi che dovevo tornare a casa. E lì mi accompagnò fino all'albergo. Per strada mi indicò ancora il negozio di orologi nel quale lavorava suo fratello. Dall'esterno gettai un'occhiata dentro, e lo vidi, serio, curvo su di un tavolo, mentre osservava attraverso una lente le piccole parti di un orologio. Non volli disturbarlo e passai oltre senza farmi notare. Davanti all'albergo mi fermai per congedarmi da Elie. Il fatto di avermi elargito così generosamente i suoi parenti gli aveva ridato coraggio, e così feci cadere il discorso sulla lettera. «Domani», disse, «le porto il nome del comandante». «Sì, sì», risposi, ed entrai velocemente pensando con gioia all'indomani. Da quel momento in poi, Elie fece la sua comparsa ogni giorno. Quando io non c'ero, faceva un giro intorno all'isolato e poi ritornava. Se ancora non c'ero, si metteva all'angolo della strada, di fronte all'ingresso dell'albergo, e attendeva pazientemente. Nei giorni in cui si sentiva più audace, si metteva a sedere nella hall, ma non si tratteneva mai più di qualche minuto. Temeva i camerieri arabi che lo trattavano con sufficienza. Forse si erano accorti che era ebreo. Venne con il nome del comandante, ma portò anche tutti i documenti di cui era venuto in possesso nel corso della sua vita. Non li portò in una sola volta. Ogni giorno ne aggiungeva 1 o 2 nuovi, che nel frattempo gli erano venuti in mente. Sembrava convintissimo che io potessi redigere il sospirato ordine per il comandante di Benguerir. Bastava che lo volessi. Sull'effetto di quell'ordine, una volta redatto, non nutriva il minimo dubbio. Ogni foglio di carta aveva qualcosa di irresistibile, purché ci fosse scritto sotto un nome straniero. Mi portò i certificati di tutti i posti dove era stato. In effetti, aveva lavorato per un breve periodo come plongeur presso gli americani. Mi portò dei certificati di Simone, il fratello minore. Non veniva mai senza estrarre un foglio dalla tasca e mettermelo davanti agli occhi. Di solito attendeva per un po' l'effetto della lettura e poi suggeriva dei cambiamenti nel testo della lettera che dovevo scrivere al comandante. Intanto io avevo discusso in ogni dettaglio tutta la faccenda con il mio amico americano. Egli era disposto a raccomandare Lidan ai suoi connazionali, pur essendo convinto che il giovane ebreo non avrebbe ottenuto nulla. Il mio amico non conosceva il comandante e neanche altre persone che potessero influire sulla assegnazione dei posti, ma né lui né io volevamo derubare lì della sua speranza, e così fu scritta la lettera. Mi sentii sollevato quando, ricevendolo con questa notizia, potei per una volta mettere io la mano in tasca ed estrarne un pezzo di carta. «Legga», disse lì, con fare sospettoso e un po' ruvido. Recitai il testo inglese ad alta voce, dall'inizio alla fine, e sebbene sapessi che lui non capiva una parola, lo lessi il più lentamente possibile. «Traduca», disse, senza batter ciglio. Tradussi, dando alle mie parole francesi un tono enfatico e solenne. Gli consegnai la lettera, e lì vi cercò qualcosa, e quindi controllò la firma. L'inchiostro non era molto scuro, ed egli scosse il capo. «Questa, il comandante non può leggerla», disse, rendendomi la lettera. E aggiunse impavido: «Me ne scriva 3 di lettere. Se il comandante non risponde alla prima, manderò la seconda in un altro campo». «Ma a cosa serve la terza lettera?» domandai. per nascondere il mio sbigottimento di fronte alla sua sfacciataggine. «È per me», rispose con fierezza. Io capii che la voleva allegare alla sua raccolta di documenti. L'idea che questa terza lettera fosse per lui la più importante mi parve irrecusabile. «Scriva il suo indirizzo», aggiunse. L'albergo non figurava da nessuna parte. Era dunque questo che aveva cercato. «Ma no, non ha senso», dissi. «Tra poco noi partiremo. Se dovessero rispondere alla lettera, avranno bisogno del suo indirizzo». «Scriva il suo indirizzo», rispose irremovibile. La mia obiezione non lo aveva minimamente impressionato. «D'accordo, possiamo farlo», dissi. «Ma sulla lettera bisogna scrivere anche il suo indirizzo, altrimenti l'intera faccenda perde significato». «No», disse. «Ci metta il suo albergo». «Ma cosa accadrà se davvero hanno intenzione di darle un posto? Come faranno a trovarla? Noi la prossima settimana ce ne andremo e la risposta non arriverà certo così rapidamente. Ci metta all'albergo. Lo dirò al mio amico. Speriamo che non si arrabbi per il fatto di dover riscrivere la lettera da capo». Non potei fare a meno di punirlo per la sua ostinazione. 3 lettere fu la sua risposta. «Metta all'albergo su tutte e 3 le lettere». Lo lasciai. Ero irritato. E pensai se fosse il caso di rivederlo ancora. Il giorno dopo arrivò con un'espressione particolarmente solenne e mi domandò: «Vuole conoscere mio padre?» «Dove si trova?» domandai. «In negozio. Ha un negozio insieme a mio zio, a 2 minuti da qui». Acconsentii e ci avviammo. Il negozio si trovava in una strada moderna che portava dal mio albergo a Baba Genou. Avevo fatto quel percorso molto spesso, varie volte al giorno, sempre dando un'occhiata dentro i negozi, sia a destra che a sinistra. C'erano molti ebrei tra i proprietari di questi negozi. I loro volti mi erano ormai familiari. Mi chiesi se uno di loro fosse il padre di Eli e li passai mentalmente in rassegna. Quale poteva essere? Ma avevo sottovalutato il numero e la varietà di quelle botteghe. Infatti, non appena entrammo venendo dalla strada, incominciai a stupirmi di non essermi mai accorto di quel negozio così particolare. Era pieno di zucchero, di ogni tipo. Dal pan di zucchero ai sacchi di zucchero in polvere, ad ogni altezza su tutti gli scaffali intorno, non c'era altro che zucchero. Mai avevo visto un negozio dove si vende zucchero e basta. E trovai questo fatto, Dio sa perché, spassosissimo. Il padre di Elia era assente, ma in compenso c'era lo zio, al quale fui presentato. L'omino era sgradevole, smilzo, con il volto contratto, un tipo del quale non mi sarei fidato. Era vestito all'europea, ma il suo abito era sporco, ed era chiaro che questa sporcizia risultava da un insolito miscuglio di polvere e zucchero. Il padre non era lontano e mandarono qualcuno a chiamarlo. Nel frattempo mi prepararono, come si usa da queste parti, un tè alla menta. Ma di fronte alla straripante zuccherosità di quel locale, l'idea di doverlo bere mi causò una leggera nausea. E lei spiegò in arabo che venivo da Londra, un signore che portava sulla testa un cappello da passeggio all'europea e che io avevo preso per un cliente, fece 2 passi verso di me e disse in inglese: «Io sono britannico». Era un ebreo di Gibilterra e il suo inglese non era niente male. Si informò dei miei affari ed io, non sapendo cosa dirgli, ripetei la vecchia storia del film. Stavamo conversando mentre io sorseggiavo il tè quando arrivò il padre di lì. Era un uomo prestante con una bella barba bianca. Portava berretto e vestito, secondo l'uso degli ebrei marocchini. La testa era grande, rotonda e ampia la fronte. Ma ciò che mi colpì soprattutto furono i suoi occhi ridenti. E lì si mise accanto a lui e con un movimento evocativo del braccio disse: «Je vous présente mon père». Non aveva mai parlato con tanta serietà e convinzione. Per diventò in bocca sua una parola addirittura maestosa. Non avrei mai pensato che un uomo così stupido potesse parlare con tanta maestà. Per suonò più importante di americano. Ed io mi rallegrai. Mi rallegrai che del comandante non rimanesse più molto. Strinsi la mano di quell'uomo e lo guardai nei suoi occhi ridenti. Egli domandò al figlio, in arabo, qual era il mio nome e da dove venivo. Poiché non sapeva una parola di francese, suo figlio si mise tra noi due e quasi con fervore, cosa contrarissima alla sua natura, diventò il nostro interprete. Spiegò al padre da dove venivo, disse che ero ebreo e fece il mio nome. Così come lo disse, con la sua voce opaca e quasi inarticolata, aveva un suono che non sapeva di niente. «Elias Canetti?» ripeté il padre con tono esitante e interrogativo. Disse il nome alcune volte tra sé e sé, separando chiaramente le sillabe. In bocca sua il nome diventò più importante e più bello. Dicendolo non mi guardava in faccia e anzi teneva gli occhi fissi davanti a sé, come se il nome fosse più vero di me e come se esso, il nome, meritasse di essere indagato. Io lo ascoltavo sorpreso e perplesso. Avevo l'impressione che nella sua cantilena il mio nome appartenesse ad una lingua speciale che io ignoravo. Lo soppesò con magnanimità 4 o 5 volte. Mi sembrò di udire il suono dei pesi. Non ero in apprensione. Quell'uomo non era un giudice. Sapevo che avrebbe trovato il senso e il peso del mio nome. E quando ebbe finito, alzò lo sguardo su di me e di nuovo mi rise negli occhi. Ora stava lì come a voler dire: il nome è buono, ma non esisteva una sola lingua nella quale potesse dirmelo. Lo lessi sul suo volto e provai per lui un amore invincibile. Mai avrei osato immaginarmelo com'era in realtà. Quel suo stupido figlio, quel suo fratello con il volto contratto, appartenevano entrambi ad un mondo diverso. Soltanto l'orologiaio aveva ereditato qualcosa del suo portamento, ma ora era assente. In mezzo a tutto quello zucchero non c'era più posto per nessuno. E lì aspettava una mia parola per poterla tradurre, e io non dissi nulla. Rimasi completamente muto per un senso di profondo rispetto, ma forse anche per non rompere l'incantesimo di quella cantilena di nomi. Restammo perciò uno di fronte all'altro per alcuni lunghissimi istanti. Se solo potesse comprendere perché non riesco a dire nulla, pensavo. Se solo i miei occhi sapessero ridere come i suoi, sarebbe stato degradante affidare ancora qualcosa a quell'interprete. Per parlare con lui, nessun interprete mi sembrava abbastanza bravo. Egli attendeva con pazienza, mentre io perseveravo nel mio mutismo. Alla fine un guizzo gli passò sulla fronte, come un lieve scontento, e disse una frase in arabo a suo figlio, che prima di tradurmela esitò un attimo. Mio padre la prega di scusarlo, perché adesso desidera ritirarsi. Io annuii, e il padre mi diede la mano, sorrise. Ora sembrava che dovesse fare qualcosa che non faceva volentieri. Sicuramente si trattava di un affare. Poi si voltò e lasciò il negozio. Aspettai qualche istante, dopodiché uscii in strada con Elì. Gli dissi che suo padre mi era piaciuto moltissimo. «È un uomo molto istruito», rispose lui pieno di rispetto, e alzò le dita della mano sinistra, che restarono espressivamente sospese in aria. «Passa tutta la notte a leggere». Da quel giorno, Elì ebbe partita vinta con me. Appagavo con zelo tutti i suoi piccoli, fastidiosi desideri, perché era il figlio di quell'uomo meraviglioso. Ero un poco dispiaciuto che non chiedesse di più. Ormai non c'era più niente che io non sarei stato disposto a concedergli. Gli feci avere 3 lettere in inglese, nelle quali venivano esaltate, perché qualcuno lo prendesse a lavorare, la sua diligenza, la sua affidabilità e onestà, e persino la sua indispensabilità. Non meno abile, in campi diversi, era suo fratello minore Simon, che io non conoscevo affatto, L'indirizzo dei due fratelli nella mellà era stato omesso. In cima al foglio spiccava il nome del nostro albergo. Tutte e tre le lettere, comunque, erano firmate dal mio amico americano con un inchiostro nero e probabilmente indelebile. Inoltre, come se non bastasse, egli aveva aggiunto il suo indirizzo negli Stati Uniti e il numero del suo passaporto. Quando illustrai a Eli questa parte della lettera, tale fu la sua felicità che quasi si insospettì. Mi trasmise un invito di suo padre per il Purim. Avrei potuto festeggiare quel giorno solenne in casa loro, in seno alla famiglia. Declinai l'invito, ringraziando di cuore. Mi immaginai la delusione di suo padre di fronte alla mia ignoranza delle antiche consuetudini. Certo avrei sbagliato quasi tutto e avrei saputo pregare soltanto come un uomo che non prega mai. Provai un senso di pudore davanti a quel vecchio che amavo e volli risparmiargli questo dispiacere. Presi come scusa il lavoro e mi decisi a respingere l'invito e a non rivederlo mai più. Mi basta averlo visto una volta. Ad alta voce, Peppe Servillo ha letto Le voci di Marrakesh di Elia Scanetti, a cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.